Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. What should I say if I need to go to the shithole? You mean to the restroom? To the place to the make bathroom. The shit. Okay, what you... Not a bath, to make a dirt Not from a bath, anus. Right. The brown. The toilet. Where you make a... Yes. You understand? Yes. Bad? Yes. Bad thing from it. Yes. What you do brown. Is you say, excuse me, I need to go to the restroom. Thank you. Bologna, 9 marzo. Pierre sognava spesso la madre, lei gli parlava in quei sogni, ma le parole svanivano al primo risveglio. Allora doveva tenersi il malumore per tutta la giornata, l'irritazione di aver smarrito un dettaglio importante. Il volto di lei era quello della foto di famiglia, dove lui era un bambinetto con lo sguardo arrogante. I ricordi non bastavano a darle forma reale, appariva sfocata in bianco e nero, su uno sfondo color seppia. Eppure gli diceva qualcosa, di questo era certo, ma cosa? Pierre aveva 6 anni quando la madre era morta di TBC. La seconda gravidanza, che lo aveva visto nascere, l'aveva provata oltre ogni limite. Forse, come diceva Fanti, un segreto senso di colpa dava corpo al ricordo, con quel poco che era rimasto nella mente. L'estremo tentativo di farla sopravvivere. La ricordava sorridente, un sorriso modesto e angelico, uno sguardo rivolto su di lui per mormorare una frase, qualcosa che mitigasse l'irruenza di un bambino precoce e agitato. Solo una sensazione. Rosa Montanari era una donna esile e bellissima. Veniva da una famiglia povera di Solarolo. Aveva sposato Vittorio Capponi nel 1920, a soli 18 anni. Il padre di Pierre, bracciante, poi operaio di Lugo, classe 1901, era reduce dai moti del Biennio Rosso e portava incisi sulla carne i segni del destino che si era scelto, le mazzate degli agrari, l'adesione al neonato Partito Comunista, il nome del primo figlio, arrivato pochi giorni dopo la morte di Lenin e chiamato Nicola in onore del grande rivoluzionario. Che poi, pensava Pierre, Nikolai Lenin non si chiamava così. Il vero nome era Vladimir Ilyich Ulyanov. Eppure Giuseppe Stalin aveva un nome lunghissimo e complicato che nessuno si ricordava. Per passare alla storia servono nomi semplici, corti e incisivi. Robespierre era nato nel 1932, registrato Piero all'anagrafe fascista. Questo era ancora 54 di Wu Ming. I fear the hearts of men are failing on these shores. Been chasing tails and trapping shadows. Whisper lanes and hoods, the conjuring of smoke. We're setting fire to sleepy towns now. I smelt blood and I heard the drumming rise. My quarter coiled up and baying. The crackling of wildfires, the breathing figures into life. Now we have enemies amongst us. Through it all I gave my hand. And through it all these days. For your heart, carry on. I draw the line, I hush the sounds. You'll never need to know. Old songs and folk tales dying. I lift my hands and fake a mirror for your flame. Sent ships bowing to the shores, fathoms of lost souls below us. I cup this fleet and blow its sails to the end. And this world comes apart in my hands. Through it all I all these days will end. Battles for your heart, carry on. I draw the line, I hush the sounds. You'll never need to know. tempo vola, i minuti stanno volando, manca veramente una manciata di questi minuti alla chiusura di un'intera stagione di Eclettica. La cosa non mi lascia indifferente, lo ammetto. Abbiamo aperto questa seconda parte con Patrick Lynn Denim e Days Without the Rain. Abbiamo poi proseguito con la bellissima Setting Fire to Sleepy Towns per The Sleeping Ears. E prima di proseguire con il prossimo pezzo, voglio darvi di nuovo i miei estremi, visto il momento di distacco temporaneo. Giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail per scrivermi direttamente e per iscrivervi alla lista nera, con cui ricevere direttamente nella vostra casella di posta la playlist della trasmissione, e poi myspace.com/eclettica. Lì sopra trovate i dettagli di tutto il podcasting, di tutta la stagione, nel caso vogliate recuperare qualcosa che vi siete persi o abbiate nostalgia nelle settimane in cui Eclettica, che ricordo essere poche, si interromperà per poi ripartire con la stagione numero 14. È arrivato ora il momento in Eclettica anche per il nuovo dei Marlene. Si tratta di Uno. Kazakh national anthem to the tune of your national anthem. Listen. Kazakhstan is the greatest country in the world. All other countries are run by little girls. Kazakhstan is number one exporter of potassium. Other Central Asian countries have inferior potassium. Kazakhstan is the greatest country in the world. All other countries is the home of the gays. Profumo di Eclettica. Someone once told me, the world is moving because you are. And tonight there are people traveling through Europe on trains, looking for something that they've never had before, wondering if they'll find it, and if they'll recognize it if they do. And tonight they're thinking about more important things. Wondering if they can keep it, if they find it, and if what they get will be what they want. And they're wondering if what they want is what they really need. And they're wondering what will happen if they find what they really want and what they really need, and they lose it. Will they ever be able to forget or to forgive themselves? Tonight I'm thinking about much more important things. Tonight I'm thinking about much more important things. And I don't really care about the crash or the rally. I don't really care. And the world will continue to move. And more people will climb on trains and head into Europe. And the world will continue to move. And more people will climb on trains and head into Europe to search for love. Thank you. dal colloquio di Pagano Salvatore con l'avvocato d'ufficio, nominato dalla Procura del Tribunale di Napoli, dottor Carlo Ercolino, in data 10 marzo 1954. «Meno male, avvocato, meno male, fatemelo dire, che ormai pensavo che mi lasciavano schiattare dentro questo inferno. E come faccio, avvocato, come faccio a stare calmo? Qua è l'inferno, sono più di 2 mesi. Non si può avere un'idea di come si vive qua dentro. Avvocato, ci stanno più zoccole dentro il braccio mio che in tutta la sanità. E voi lo sapete quante zoccole ci stanno dentro la sanità, mamma mia. E quello che ci danno da mangiare, non ne parliamo, con rispetto parlando, avvocato, ci danno la merda. Che fuori da qua manco i cani se la mangerebbero, e secondo me neanche le zoccole della sanità. Che situazione! Poi, innocente come il bambino all'altare, capite, avvocato? Vi rendete conto? Sì, sì, va bene. Scusatemi, avvocato. Ho capito, mi calmo. Ma qua uno si scorda di come si campa. Poi il freddo. Nu fridde cane. Con una coperta tutta incotechita e mezza mangiata dalle zoccole. Mamma mia, che situazione. Ma adesso sto più calmo, scusate. Ma fatemi dire un'altra cosa. Voi sicuramente dovete essere un grand'uomo, sì. Un grand'uomo. Non vi diminuite. Perché solo un grand'uomo si potrebbe prendere l'incarico di un povero disgraziato senza una lira come Pagano Salvatore. Perché, sia chiaro, avvocato, che io non c'ho una lira, avete capito? Dite che è vostro dovere? Che siete nominato d'ufficio? E che vuol dire? Non fa niente. Siete un grand'uomo lo stesso. Quelli come voi devono campare 100 anni. E senza disgrazie. Questo era ancora 54 di Wu Ming. Quello che si è appena chiuso, Georgia, da parte dei The 90s, è un brano che è comparso spesso ultimamente all'interno di Eclettica, ma è sul precedente che voglio spendere qualche parola. Sul brano che questa settimana ha rappresentato il profumo di Eclettica, cioè il riperscaggio dalle vecchie playlist di Eclettica, in questo caso nel 2003, un album di debutto per un quartetto scozzese di nome Ball Boy, un album dal titolo Guide for the Daylight Hours, che è un album molto particolare. Voi sapete come io vada a dire spesso che quello che importa non sono gli album, ma sono le singole canzoni, le emozioni che ti regalano le singole canzoni. Ecco, questo album di questa quasi misconosciuta band scozzese è un concentrato della maggior quantità di belle canzoni che mi sia capitato fra le mani negli ultimi anni. Io ne ho scelta una, ma se ne potevano scegliere almeno altre 4. Però voluto essere corretto, sono andato a scegliere quella che più è stata trasmessa in Eclettica, quindi quella che più ha trovato spazio nelle playlist, quindi quella che è la giusta candidata per Profumo di Eclettica, è Europe Wide Search for Love. Voglio chiudere l'intera stagione di Eclettica con un artista a cui sono molto legato, uno degli inediti, uno dei suoi inediti che sono usciti quest'anno. Sto parlando di Nick Drake. Oh, Black Mountain, try to spit in your face. Oh, Black Mountain, try to spit in your face. Baby's cropping whiskey, oh, she's practicing bass. On Oh, Black Mountain, mean as they can be. Oh, Black Mountain, mean as they can be. They use gunpowder just to sweeten the tea. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. Had a girl on Black Mountain, sweetest girl in town. But she met a sweet black man and then she threw me down. Well, old Black Mountain can't keep a man in jail. Oh, Black Mountain can't keep a man in jail. Jury call him guilty, judge will grant him bail. Come back to Black Mountain, need my reason, my gun. Come back to Black Mountain, need my reason, my gun. Gonna cut her if she stands and shoot her if she runs. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 49, volume numero 5, è l'ultimo dell'intera stagione. Indice, Amina, The Robot Ate Me, Mum, Rock Plaza Central, Tiny Vipers, Patrick Clean Denim, The Sleeping Years, Marlene Kunz, Ball Boy, The 90s, Nick Drake. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda all'inizio della prossima stagione, quella che sarà la numero 14 su Rock FM.